Anch'io ho ricevuto un regalo di Natale. È un nuovo fiammante 100 gradi. Fantastico. Basta un poco d'acqua e 100 gradi col suo vapore sgrassa, smacchia, scrosta, disgrega quel diavolo di sporco. Diavolo? Oh no! Eravamo rimaste un po' un po' così a chiacchierare delle ultime letture e quindi non ci eravamo rese conto che la nostra sigla era quasi finita. Quindi esordiamo così con un buonasera a tutti. Buonasera, buonasera, ci sono anch'io dall'altro lato del microfono. Certo, non faccio mai la trasmissione da sola. Questa fantastica trasmissione del giovedì, un grande inizio con colpi di cuffia sul microfono e notizie pessime notizie. Dolore, ragazzi, dolore fisico. Allora, vi dobbiamo dire la verità. In realtà stiamo registrando qualche ora prima del nostro solito ore 20, quindi abbiamo degli aggiornamenti. Dalle 15.03, anzi, a ritroso, da stamattina alle 11 più o meno, a ora. E ora Nenia vi spiegherà quali aggiornamenti sono, di cosa si tratta. Allora, questi sono gli aggiornamenti di questa mattina. Torino, sgomberi e arresti, aggiornamenti del 7 febbraio, questi sono più o meno della mattinata, e dice: prime notizie sugli arresti e sgomberi di oggi. Oggi perquisizioni e sgomberi all'asilo occupato di via Alessandria e alla casa occupata di Corso Giulio. 8 indagati, richieste, 7 misure cautelari, di cui 5 arresti, un'indagine per associazione sovversiva per le lotte contro i centri di internamento e rimpatrio per la popolazione migrante, probabile sgombero dell'asilo. Mentre scriviamo, quindi mentre scrivono loro in mattinata, ancora le notizie arrivano man mano. Radio Blackout. Radio Blackout direttamente da Torino. Sicuramente poi anche su Radio Onda Rossa e le altre radio amiche troverete degli aggiornamenti. Purtroppo noi non ci possiamo sbilanciare perché appunto siamo a metà della giornata. L'assemblea sarà alle ore 18 in via Cecchi 21A, quindi alla sede della radio. E non possiamo dirvi troppo di più se non nel momento in cui ci state ascoltando in pseudo diretta, quindi giovedì 7 febbraio, di riaggiornarvi voi direttamente sul sito di Radio Blackout e a questo punto probabilmente poi anche nelle altre radio. Ci sono delle dirette dagli sgomberi che è inutile mandarvi ora perché l'ultima è delle ore 11, però è una situazione parecchio calda, insomma, parecchio preoccupante. E diceva appunto l'inviato della Radio Libera di Torino che ci sono diversi gruppi di, come li hanno chiamati, antagonisti in gergo, che stanno cercando appunto di andare in soccorso delle persone che appunto sono assediate in questo momento. Sì, infatti qui parla proprio di gente rincorsa via via nei vari gruppi, di gente che sta correndo in solidarietà, viene in rincorso, comunque un po' fermata e braccata dagli sbirri. E sì, la situazione è un po' preoccupante. Ci sono diverse camionette in ballo, per l'appunto, ecco, non ha senso dirvi tanto di più se non date un'occhiata al sito di Radio Blackout e ascoltate via via poi le dirette degli sgomberi e i vari aggiornamenti. Questo è quanto per aprire questo mese di febbraio. Esatto, perché oggi è la nostra prima puntata del mese di febbraio. E questa è una pessima apertura del mese. Esatto, avremmo voluto darvi notizie migliori e invece è tutto molto diabolico quest'oggi. Sì, davvero, come se ci fosse lo zampino del diavolo. Ma fa le pentole ma non i coperchi, cara mia. Aiuto. Oggi stiamo facendo la trasmissione. Oggi siamo in plein air. In plein air. Perché c'è tutto... più caldo fuori che all'interno della regia. Primavera! Svegliatevi bambine. E oggi sì, è proprio il caso di dire che diamo... La trasmissione sull'herbe. Tutto in piena aria. Oggi orsù. Forse è il momento quindi... che tanti di voi aspettavano, secondo me. Sì, cari miei. I nostri questo è tutto il succo. Questo è il qui, succo sentite? Della nostra trasmissione. Senti le papier. Oh, questa è una puntata non propriamente in diretta, in semidiretta, e soprattutto è una puntata che trae non solo ispirazione, ma proprio parti fondanti da questo bellissimo libro su Titi Villus. Ta-da-da-da! Molti di voi che ci ascoltano lo sapranno, è il demone dei refusi, anche a sottotitolo di questo libello di poco più di 80 pagine, anzi neanche, siamo a 65 col colophon. Ma secondo me proprio perché un po' viene dall'immaginario medievale, secondo me non è tanto conosciuto, ma devo dire anch'io, guarda, l'ho conosciuto l'anno scorso per puro caso, perché quindi chissà, raccontato. Magari è una novità per tanti. Chissà, so che ultimamente nel web se ne è parlato tanto e quindi magari qualcuno di voi ha sentito parlare appunto di Titi Villus. Tra l'altro devo ringraziare la persona che me lo fece conoscere un anno fa, poco più, la nostra gatta della Fuga del Gatto, la Virgi, che ci mandò per l'appunto questo articolo di un quotidiano, forse della Era Repubblica, sulla Repubblica. Sì. Quindi grazie a lei per averci inoltrato in questa strada demoniaca, perché se già eravamo sulla cattiva strada, ora rossa peggio. Come la sua chioma. Sì. Quindi dedichiamo questa trasmissione a lei e a tutta la Fuga del Gatto, che è sempre molto piacevole da ascoltare. Sì. E che ci allieta le nostre domeniche a suon di tè, pasticcini, sì, certo. E operistica. E non operatissime. Noi invece siamo oberate. Anche. Allora, questo libro di Julio Ignacio González Montañés è edito dalla Grafe.it, dalla Grafe Edizioni, mi pare sia milanese. E che dirvi? Ci sarebbero tante cose da spiegarvi. Possiamo iniziare molto brevemente dicendovi che questo libro è disponibile online, oppure lo potete comprare anche qui a Firenze, all'IBS sicuramente, in tutte le librerie più piccoline che hanno, diciamo, un pochettino di come dire, un catalogo un pochettino più ricco. Oppure venite a qualche festa della radio prossima e noi ve lo prestiamo. Ecco, no, io non presto libri. Ve lo presto ma con la catenella, cioè lo presto però a tre metri di distanza e poi esatto. Ritiro la catenella. Potete... Però magari qualche foto, qualche pagina interessante, sì, gliela facciamo fare, sì, no? Sì, assolutamente. A scopo di studio. Ma ve lo passiamo. Sì, dai. E questo Demonio della Serratas, copyright appunto di Montañés, è stato scritto nel 2015 e tradotto in italiano da Roberto Russo. In realtà la prima edizione italiana, sempre a cura della Grafe.it, è del 2018, quindi freschissimo. E, cosa facciamo? Vogliamo mettere un pezzo prima di raccontare tutta la storia? Io non vedo l'ora. Sì, sicura. La selecta di oggi della Nenia è bellissima, io non vedo l'ora. Perché questo pezzo ci accompagnerà poi per tutta la puntata. Sei sicura di voler iniziare ora? Voce al sottofondo della Principiamo questo terribile momento. Vediamo diabolico. Secondo me qualcuno potrebbe averlo già indovinato. Vendi mille anime e ti mando alle stelle. quotidiano. Non ce la farò mai nella vita essere una persona seria. Quindi faccio una dichiarazione di intenti a tutto il popolo wombattiano. Io non ce la farò mai a essere una persona seria nella vita. Ma bene, io ti do un grande aiuto con la selezione musicale. No, lo diciamo, siccome non ci teniamo niente, noi non abbiamo segreti con i nostri amici che ci ascoltano, stavo scrivendo una dedica al volume che ho regalato alla Nenia, appunto di Titi Villus, con una citazione coltissima. Ma insomma, sta ancora ridendo. La vita dura è una gran fregatura. Bene, è arrivato il mio sottofondo e quindi... Il tuo sottofondo preferito della settimana? Del mese. Del mese, giusto. Scaturito dall'immaginario medievale, ricco in figure demoniache cui spesso erano attribuite doti nella scrittura, il demone Titi Villus si è visto assegnare nomi e ruoli differenti. Descritto come intento ad annotare su una pergamena peccati, pettegolezzi o omissioni liturgiche, oppure a distrarre la concentrazione di monaci e fedeli in tempi più recenti, grazie a un fraintendimento o a un giocoso travisamento, questo personaggio si è trovato a incarnare il diavolo dell'errore tipografico. Nel prezioso saggio che avete fra le mani, ce l'abbiamo, l'autore illustra la storia poco nota di questo curioso demone dei refusi, che tra l'altro è bellissimo, perché poi nell'immaginario dal Medioevo fino al Rinascimento ci sono delle opere fantastiche, delle incisioni stupende, dei dipinti, miniature, anche di se tutto un po'. Io ho già prenotato la fine del tatuaggio sul braccio, che devo finire da anni. Che bello. E ovviamente ci sarà spazio per un piccolo Titi Villus. Non vi interessa, lo so, però ve lo volevo dire. No, merita. Io chiaramente nel podcast della trasmissione metterò quello più radiofonico, più colorato e più carino, ma ce ne sono veramente tantissimi, molto molto belli. Cercateli, vi prego. Nel volume trovate illustrazioni su Titi Villus da pagina 53 alla fine, appunto, del volume, e sono più o meno tutte incisioni datate all'incirca da incisioni e sculture anche. Sì, ci sono anche diversi bassorilievi romani. Sì, sono veramente veramente molto belli. Sì. Titi Villus. Quando è nato Titi Villus? È nato... Vediamo la scheda tecnica del Titi Villus. Il nostro amico Titi è nato sul finire del secondo secolo nella lettura medievale europea e soprattutto in quella branca che viene chiamata omiletica, ovvero l'arte della predicazione cristiana che si rifà al meccanismo della retorica. E il nome infatti deriva da omilia, che in latino significa omelia, per cui insomma è abbastanza... è abbastanza, come dire, facile da capire. E al principio questo demone non aveva un nome. Ben presto però viene conosciuto come Titivillus da parte di Guglielmo d'Alvernia, e la sua funzione è quella di annotare su una pergamena le sillabe e le parole omesse dai chierici durante la messa, durante la recita delle ore e nel canto liturgico, per poi presentarle a Dio nel momento del giorno del giudizio come prova incriminante. Quindi diciamo appunto è una figura diabolica differente da quelle a cui siamo portati a pensare oggi. Non era un antagonista divino, molto semplicemente era una figura tra virgolette malefica al servizio di Dio. Insomma, vi farei presente che nella storia medievale il diavolo e il demone aveva una funzione un pochettino diversa rispetto a quella che è stata poi tramandata nel periodo post inquisitorio, eccetera eccetera eccetera. E c'è un incipit molto bellino che dice: fragmina verborum titivillus colligitorum sique die mille vicibus e sesarcina tille, che significa titivillus, oggetto sottinteso, raccoglie frammenti delle parole omesse nelle ore, quindi nel libro delle ore, e così mille volte al giorno riempie il suo sacco. Questa è una, diciamo, delle didascalie con cui viene conosciuto Titivillus. E che dire? Un attimo solo, amici. Oh, un'altra parte un'altra molto gustosa. Sì, molto gustosa. Allora, ve la raccontiamo. Non me la farei sfuggire. Ve la raccontiamo subito. Molto facile, diciamo, una cosa molto, molto carina e, come dire, che ci dice qualcosa di più a proposito di questo demone non solamente raccoglitore dei refusi tipografici, ma anche grammatico e scrittore. La principale caratteristica, infatti, che definisce il nostro demonio, perché González Montañés ha stretto quasi un rapporto di amicizia molto intima e molto approfondita con Titivillus, quindi la caratteristica che definisce il nostro demonio è la competenza nella scrittura, aspetto che non deve sorprendere, visto che fin dai primi tempi del cristianesimo sono state attribuite ai demoni abilità linguistiche e letterarie. Non a caso il diavolo parla tutte le lingue del mondo. Evagrio Pontico, nella Cefalaia Gnostica, sul finale del secolo IV, ritiene che i demoni siano conoscitori appunto di tutte le lingue della terra, ed è una conoscenza acquisita, sebbene siano stati esclusi dal dono delle lingue dello spiritoso, come frutto di lunghi anni di studio per poter tentare gli umani nelle loro lingue vernacolari. Capito. Nell'Europa occidentale poi è San Pier Damiani, nel suo Epistolarum Libri 8, quindi l'epistolario di 8 libri, nel primo libro Epistola 15, e siamo circa nell'undicesimo secolo, presenta Satana come il primo grammatico, perché secondo lui avrebbe insegnato ad Adamo ed Eva a declinare contro il monoteismo il plurale della parola Deus, Dei, Deo, Deum, De, Deo. È un capolavoro questo. Davvero. Eritis sicut di. Eccola qua. Senti qua allora. Peraltro non può sembrare strano che i libri medievali di magia e satanismo fossero conosciuti come Grimorios o Grimoire o Grimoires, costruzione del francese grammaire, grimoire, o che il poeta Macabru chiami Gramavi il diavolo che convertì Adamo dal più saggio al più stolto degli uomini. Hai capito? Sì, e veramente dal parlare tutte le lingue del mondo a essere effettivamente un grande manipolatore. E quindi la caratteristica linguistica non appartiene solamente a Titi Villus in sé, ma a una foltissima e nutrita schiera di diavoletti che hanno tenuto compagnia a tanti scrivani divini durante le loro lunghe serate durante il periodo medievale. Ecco. E questa competenza letteraria che il Medioevo ha attribuito ai demoni è un riflesso della concezione ideologica che il clero aveva della scrittura come coscienza del potere e come strumento di dominio. La scrittura in sé è potere e i demoni sono potenti, tra le altre cose, per le loro abilità come grammatici e scrittori. E a conferma di ciò, le rappresentazioni del miracolo di Teofilo, nelle quali nel secolo XIII, il patto con Satana non è semplicemente un accordo verbale confermato con il gesto feudale della emictio manum, quindi di una sorta di stretta di mano, ma si formalizza con una pergamena timbrata, immagine dell'importanza che l'avvocatura e il testo scritto stanno acquisendo nella società gotica. L'avvocatura è una gran fregatura. L'avvocatura è una gran fregatura. Ma insomma, poi vi lasciamo continuare da voi questa prima parte di presentazione su Titi Villus e su anche la figura del diavolo come grande conoscitore delle lingue. E vi rimandiamo in realtà alla pagina 20 di questo libro, dove l'autore inizia un po' a declinare i vari aspetti di... Anche al contrario. Ah, ne ho... Dopo probabilmente faremo un'incursione con un pezzo trescissimo che mi è venuto in mente ora. Oppure, se non riusciamo a esaurire l'argomento oggi, perché effettivamente è un po' lunghino, appuntamento alla prossima. Vadi. Ma che facciamo? Siccome abbiamo parlato di demoni che sanno parlare bene, vediamo se si sanno anche presentare questi diavoli. Vediamo un pochettino, perché insomma non possono essere così tutte parole e niente. Ah, cioè non riesco a parlare, non lo so che c'ho. Ecco cos'ho. Ecco che cos'ho. Sono un amico di tua madre. Cos'è quello sputo verde che hai sulla maglia? Potresti anche sciogliermi allora. Ho paura che ti faresti del male, Regan. Io non sono Regan. Capisco. Bene, presentiamoci allora. Io sono Damian Carras. E io sono il diavolo. E adesso sciogli le cinghie per piacere. Se sei il diavolo, perché non le fai sparire? Sarebbe una volgare esibizione di potenza, Carras. Dov'è Regan? Qui dentro, con noi. Fammi vedere, Regan, e ti sciolgo una cinghia. Aiuta uno che serviva messa, padre. Tua madre è qui dentro con noi, Carras. Vorresti lasciarle un messaggio? Penso io a fargliela avere. Se questo è vero, conosci il cognome di mia madre da ragazza. Qual è? Oddio. Tutto a posto, avete digerito il pranzo? Speriamo. Pranzo, merenda, aperitivo. La cena. Allora avrete digerito tutto. Mamma. Io stavo cercando il nome della doppiatrice italiana della versione posseduta di Regan in questo film di Friedkin che avete riconosciuto, è l'esorcista. Perché c'era una cosa, un cameo, alla faccia del cameo. La doppiatrice americana, non mi ricordo chi era, sicuramente era un'attrice che veniva dal muto e aveva fatto anche una buona fetta di film, diciamo tra gli anni 40 e 50. Aveva costruito la sua voce per appunto impersonare il diavolo in questo film, ricominciando a fumare, e ha fatto buona parte delle, diciamo, dei frammenti doppiati completamente sbronza. Questa era, come dire, la caratteristica, la nota di colore che insomma volevamo darvi su questo frammento appunto del film, in cui il diavolo si presenta e io sono il diavolo. Tornando a noi invece, vocamus titivillus, e iniziamo a spiegarvi quali sono i suoi ruoli, perché non è, come dire, genericamente soltanto il demone dei refusi, ma è un notaio, è un accusatore, è un censore e molto di più. Siamo a pagina 21, per chi una volta ricomprato il libro volesse avere una sorta di guida, comprato anzi il libro, a meno che non ve l'abbiano già rubato, volesse un attimo rivedere un po' insomma ripercorrere con noi le tappe del libro, siamo a pagina appunto 21. E allora Titivillus è presente in tantissime, come vi dicevamo prima, in exempla, in didascalie, in illustrazioni, in capitelli, in fregi, e la collazione, come si direbbe proprio nell'ambito filologico di tutti questi materiali, ha permesso all'autore di dare diverse definizioni, diversi ruoli a questo diavolo. Il primo è notaio di parole vane. Jacques de Vitry, nei suoi exempla degli inizi del secolo XIII, attribuisce a Titivillus la funzione di raccoglitore delle mancanze dei chierici, delle parole vane dei fedeli nelle chiese e quindi dei pettegolezzi. E questo si collega, appunto Jacques de Vitry esprime tutto questo in un frammento latino che si collega all'ammonizione evangelica nel Vangelo di Matteo, che avverte gli uomini che dovranno rendere conto delle parole vane nel giorno del giudizio. Di ogni parola vana che gli uomini diranno dovranno rendere conto. E in realtà, ovviamente, la presunta misoginia clericale medievale, questo clericale l'ho aggiunto io perché era soprattutto nell'ambiente clericale, c'era questo sentimento abbastanza nutrito di essere nei confronti delle donne. Leggermente, insomma, la misoginia ecclesiastica, appena una puntina, puntina. Proprio così. E poi dicono l'invidia del pene. La misoginia ecclesiastica medievale diresse l'operato di Titivillus, ovviamente, verso le donne considerate pettegole per natura. Nasce così nell'arte il tema delle donne pettegole, ma guarda un po', è stata colpa di Titivillus, che gli autori di lingua inglese chiamano Warning Against Idle Gossip. È un tema molto popolare, infatti, nell'Europa del Nord, in Inghilterra, in Germania, in Danimarca, in Svezia. E l'iconografia della donna pettegola è solita concretizzarsi nella rappresentazione di due o più donne sedute su un banco della chiesa, spinte da un demone a spettegolare. L'immagine è proprio di queste due donne, una a fianco all'altra, e il demone che, quasi abbracciandole con le zampe, cerca di avvicinarle spingendole dalle spalle. E nel campo dei testi, però, il ruolo di Titivillus si estrinseca specialmente in relazione alla cosiddetta Messa di San Martino, in cui si racconta una storia molto carina, che è quella del diacono Brizio, rimproverato dal santo di Tours, quindi San Martino, perché rideva rumorosamente durante la messa. In questa circostanza, il diacono addusse come giustificazione al suo comportamento il fatto di aver visto un demonio che annotava i pettegolezzi di alcune donne, e quindi, nel provare ad allungare la pergamena con i denti per avere più spazi per scrivere, ne aveva provocato la rottura, finendo con lo sbattere la testa contro un muro. E quindi c'è anche chi, in tempi andati, Titivillus l'ha visto sul serio. Poi abbiamo la raffigurazione di questo diavolo come censore di chierici distratti. Sappiamo che spesso e volentieri nell'ambiente ecclesiastico i testi venivano tramandati da alcuni copisti che per tantissime ragioni interpolavano errori all'interno dei manoscritti, e questi chierici spesso e volentieri venivano appunto puniti da Titivillus. L'autore ci dice: tanto il copista di Pietro Lombardo quanto Guglielmo di Maghelone o Jacques de Vitry, quindi sono diciamo dei copisti decisamente autorevoli per il periodo medievale tra il 1002 e il 1003, presentano il demone che di lì a poco Guglielmo d'Alvernia chiamerà Tintinillus nel ruolo di chi annota le omissioni dei chierici durante le messe. I testi più diffusi che parlano appunto di questa particolare funzione di Tintinillus sono le Star Occidentalis di Jacques de Vitry. E proprio a partire da questo testo, che è ripetuto poi in numerosi sermonari, la popolarità del demone inizia a crescere e si diffonde come esempio da cui si ricava un'ammonizione non solamente per i copisti più pigri e distratti, ma diciamo questa ammonizione diventa quasi un exemplum per tutti i distratti delle comunità monastiche contro la cosiddetta pratica delle messe secche, cioè quelle messe pagate per il suffragio dei defunti che venivano molto di frequente abbreviate e recitate così velocemente da compiere errori e omissioni in ogni dove. E è anche per questo motivo poi che è molto frequente incontrare versi scritti nei cori delle chiese monastiche, nelle cattedrali o alcune rappresentazioni artistiche decisamente, come dire, trascurate o piene di abbreviazioni. Quindi diciamo questa caratteristica deriva proprio da queste messe secche che Tintinillus come dire, controllava e ammoniva. Non solo, abbiamo anche altre caratteristiche come il raccoglitore di peccati, colui che confonde gli scrivani e forse basta. No, demone degli stampatori anche. Il demone della tipografia. Questa è l'evoluzione rinascimentale, esatto, del post-invenzione della stampa, grosso modo. Qua ho letto anche di Friedkin, come mai? Vabbè. Che facciamo? Hai bisogno di una pausa, secondo me, perché hai parlato tantissimo. E allora ti farò ascoltare una canzoncina. Sentitemi un po'. Un giorno il diavolo mi incontra per strada, mi dice: vieni che nessuno vede, ho tutto quello che ci vuole per te. E sacundi, sacunda, sacundingundingunda. Ci penso un bel po' e lui continua con la voce sua dente: avrai vestiti, la bellezza, l'argento. Adesso invece c'è la noia e sacundi, sacunda, sacundingandingandà. Perché stai ancora lì a pensare? Io ti voglio regalare quello che fai finta a me. Il diavolo, con me starai bene. Sentivo già venirmi la tentazione, però alla fine gli rispondo così. E sacundi, sacunda, sacundingandingandà. Per me ci potrei anche venire, ma mi sembra di capire che di non ha niente. Ciao diavolo. Ciao diavolo. Sacundi e sacunda. Che bella. E sacundi rundi runda. Allora, prima di riparlarvi però di Titi Villus, così non ce ne dimentichiamo, volevamo magari fare un pochettino il punto su quelli che sono gli appunti della... Sì, buona gli appunti, ragazzi. Si vede appunti che stavo lavorando, sono venuta a fare la trasmissione e sono rimasta con la testa là. L'agenda, quindi, che cosa succederà in questo, si spera, non piovoso fine settimana di febbraio? Sì, speriamo sì, non piova. Dicono che pioverà, ma noi invece facciamo la danza. Ma con la, dopo la puntata del diavolo non pioverà di sicuro. Che ci metta lo zampino. Bene, perché che cosa c'è in giro? C'è questa iniziativa Mondeggi, un'assemblea europea che dura dal 5 al 10 febbraio, Reclaim the Fields, che ha come punta poi della parte un po' così sociale e divertente fuori da Mondeggi, una giornata/serata al CSA Next Emerson, dove dalle 16 del sabato 8 febbraio, no, sabato 8, sì, sì, sì, è giusto, sabato 8 febbraio, vede alle 16 lo scambio dei semi autoprodotti. E alle 17 racconti e riflessioni contadine dai territori in lotta, alle 18 teatro contadino libertario e alle 21 cena genuina. Dopodiché 22:30 live Balkan Music di Mescaria e a seguire Emerson Setter con tante frivolezze e rock and roll, swing, e musica balcanica. E trash. Sicuramente qualcosa io di trash sarò scatta davanti alla console a fare le richieste di musica trash. Però mi correggo perché giovedì è 9. Cioè giovedì è 7, quindi è 9. E sabato 9, sì, sì. Ho fatto confusione con il flyer dell'appuntamento europeo generale con quello del CSA Next Emerson. Per qualsiasi allora, per dormire a Mondeggi e o prenotare la cena, scrivere a verso mondeggibenecomune@inventati.org, per informazioni reclaimthefields.org, Mondeggi Fattoria senza padroni, sapete dov'è, in via di Mondeggi 4 a Grassina, il CSA Next Emerson invece in via di Bellagio 15 a Firenze. Questo è un appuntamento che vi farò anche sentire con le vostre orecchie. Così vi rimane impresso. Reclaim the field. Reclaim the field. Reclaim the field. Reclaim the field. Reclaim the field. Dal 5 al 10 febbraio a Mondeggi Bencomune, Fattoria senza padroni, Bagnoripoli. Che bello, il finale sembra le istruzioni delle medicine. Possono creare qualsiasi tipo di tumore e morte. Certa, e secca, sicura. Che buon temponi, ci piace questo spazzino. Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Un saluto agli amici di Frittole. Sì, sì, sì, sì, sì. Bene, che dire? Continuiamo. A questo punto, scusa, aggiungo le ultime informazioni, quelle di routine. Social Wombat, sito wombat.noblogs.org, twitter.com/radiowombatfi, Facebook invece è facebook.com/radio-wombat-firenze. Per le mail, soprattutto per inviarci le foto del wombat dal mondo, posta wombat@insiberia.net. Ah già, perché il wombat dal mondo si è fatto rivedere, risentire, abbiamo registrato qualche spostamento in questi giorni. Per parlarne ho bisogno di una colonna sonora. Un saluto anche a Piero e a Ghigo, perché ovviamente ma ragazzi, il video di questa canzone lo dovete... Io l'ho visto in Sant'Ambrogio, allora, compiti, Ghigo, l'altro giorno. Compiti per il fine settimana: riguardare il video di questa canzoncina di Nulla. Vabbè, se ne avete il coraggio. C'è anche il matador perfido che uccide i tori. Brutto. Infilzare i tori, brutto, esatto. Fa schifo. Vi, chi lo fa si merita di ritrovarsi nell'esatto momento in cui si trova ora vestito come Piero Pelù in questo video. Che forse era sotto trace, perché aveva tutta questa espressione un po' così. Ma perché è demoniaco in questo video? No, perché è un... Perché lui è fantastico, veramente fantastico. Ciao Piero! E mi raccomando, ragazzi, carnevale. Traete ispirazione da questo video. Che ideona. Peccato perché ho già un costume pronto, ma che non ti posso rivelare perché probabilmente lo userò a casa tua. Ma lo diremo dopo carnevale. Quindi, insomma, che cosa ci racconta l'Wombat dal mondo? Dove è stato l'Wombat questa volta? Mi giunge voce di Wombat in terra teutonica. Sì. Allora abbiamo scovato, ci è stata inviata la foto di un pub berlinese in cui l'adesivo dell'Wombat è in compagnia con Firenze Antifa e l'adesivo di un cane che forse è un bassotto, o forse no, ma qualcosa di simile. Cane basso. E quindi questo trittico meraviglioso ci intriga tantissimo, e seppur la foto chiaramente non è di ottima qualità, perché vi immaginate all'interno di un pub, però con il fotografo rispetta le condizioni, giustamente. Quindi vi metteremo comunque questa foto perché è veramente caratteristica. Nonostante non si veda un granché bene, magari sollecitiamo chi ce l'ha mandata a inviarcene un'altra. Vai a farti un altro ritorno. Amore, ritorna al solito I pub. Sono in stesso fiore. Pub. Però, insomma, noi la nostra casella di posta Freme qui sulle onde di Radio Wombat. Ne ho già aspettiamo. Pronte delle altre. Ma allora questo Wombat è proprio. È un girellone, un girellone. Sì. Da Budapest a Berlino. Sì, montagne, ovunque. Ha fatto di tutto. Beato lui che è sempre in ferie, mica come noi. Prima o poi arriverà una pagina nel sito con tutti i wombat dal mondo, ve lo prometto. Quando il arrivo a 10 fotografie interessanti, aprirò la nuova pagina del sito. Sì. Bene, io farei una cosa, vi leggerei l'ultimo frammento e poi tutto il resto lo rimandiamo alla prossima puntata. Vedi come divento più seria e riduco un pochino i volumi per non distrarti troppo. No, è che... Te lo faccio riascoltare anche al contrario, aspetta, Sentite un po' che roba. Ha detto viva Nina, viva Nenia, viva Tivillus. Tivillus. Tivillus loves Nina e Nenia, Nena e Nina, Nina e Nenia. E infatti Tivillus è uno che confonde noi, io e la Nenia siamo spesso confuse, sarà che forse nella regia ormai c'è lo zampino suo. Ma non confonde solamente noi, confonde anche gli scrivani di ieri e di oggi, ve lo posso confermare. Allora, sentite che bella questa cosetta. I dizionari francesi dalla fine del XIX secolo hanno trasformato Titivillus, quindi facciamo un bel balzo nel corso dei secoli, un bel salto temporale, in colui che confonde gli amanuensi, e nel 1980 Mardrogan lo innalzò alla categoria di diavolo patrono della calligrafia. Da allora numerosi artisti, autori, gli hanno attribuito il compito di confondere gli amanuensi medievali, essendo lui la causa degli errori nella copia dei manoscritti e offrendo così una scusa facile ai copisti per i refusi. In ogni caso, l'unico responsabile sarà sempre il povero Titivillus. Jean Veillard lo ha qualificato come démon des copistes et démon étourdi, quindi demone dei copisti e dei monaci un po' storditi. E al giorno d'oggi gli amanti della calligrafia non esitano a dedicare la propria opera in venerazione a Titivillus. Esistono anche dei corsi di scrittura che si presentano con il titolo Incipit Titivillus, e varie case editrici in Italia, in Francia, in Spagna hanno il nome commerciale di Edizioni Titivillus. Quindi, se molti di noi, bruschette comprese, non conoscevano Titivillus, in realtà questo demone, insomma, nella contemporaneità è già amato, apprezzato e acclamato da tantissimi. E nella documentazione medievale però non c'è alcun chiaro riferimento a questo lavoro, e lo stesso succede nell'arte. Oderivo Vitale, sul finale del secolo IX, per cui siamo veramente ai tempi di Carlo Magno, racconta nella sua Storia ecclesiastica l'exemplum di un monaco amanuense salvato nel giorno del giudizio perché il numero di lettere che aveva scritto nel corso della sua vita superava di uno la lista dei suoi peccati presentati in un libro da un demone, a prova della conoscenza dei testi patristici in cui si fa riferimento ai diavoli scrittori di peccati, per presentarli poi nel giudizio finale. Tuttavia di Titi Villus, che confonde gli amanuensi, in questo calderone non si fa menzione. E González Montañés ci dice poi che conosco solo altri due testi, entrambi della fine del Medioevo, in cui si è voluto vedere un riferimento a Titi Villus come colui che confonde gli scrivani. Il primo è rappresentato da alcuni versi molto popolari in Germania nei secoli tra il XV e il XVI secolo e non resiste alla minima analisi critica. La cosiddetta lettera neglecta che viene menzionata non è in alcun modo una lettera non scritta, ma al contrario si tratta di una lettera omessa nelle preghiere, nelle letture o nella salmodia, come risulta chiaro leggendo questo testo completo che vi leggo in italiano. Reciti le ore canoniche se parli con devozione, così le ore sono ben recitate, allorquando vengono pronunciate con il cuore e con la bocca. Qualora le lettere vengano tralasciate, oppure le sillabe nascoste da un mormorio, qualora la pronuncia non sia corretta, qualora il testo sia letto male, Titi Villus raccoglie frammenti delle parole e mille volte al giorno riempie il suo sacco. Insomma, per tutte le vecchine che oggi vanno in chiesa, soprattutto sul Monte Amiata, e al posto di recitare Ora Pro Nobis dicono Ora Foi Nodi, poi gli sfo, state molto attentine, perché Titi Villus è occhio, seduto esattamente dietro di voi. Attente. Questa cosa me la diceva il nostro caro Naoto Date di 8 Hertz, che e è di origini maremmane. Le sa tutte lui, e dice appunto che anche la sua nonna era una di quelle Ora Foi Nodi, poi gli sfo. Hai notato che quando c'è qualcosa di diabolico lui sa? Infatti due domandine anche tu, eh? Farò no, domande. Va bene. Il motivo anche per cui ci sabota le trasmissioni. Ecco. Vabbè. Insomma, per oggi Titi Villus lo congeliamo e vi raccontiamo tante altre avventure la prossima settimana, che sarà il 14. Oh, San Valentino con le bruschette! Oh, allora diavoli, cuori, amori, è chiaro. Ricordiamo, Accademia della Brusca in diretta sabato alle 10 e domenica alle 15, fino alla prossima settimana probabilmente. Dopo di noi potrete sentire 8 Hertz. Con il diabolico in auto. Con il diabolicissimo, tremendo. Dopodiché abbiamo il Tonight Alive in replica alle ore 23 il giovedì, carissimi. Che vi terrà compagnia fino al cuore della notte. Fino alla mattina, 7 ore di trasmissione, mitico. Che dire? Olimpionico. Sì, la rassegna degli eventi della settimana la trovate nei podcast sul sito di Radio Wombat, con la descrizione di tutto quello che si può fare questa settimana, diciamo, parte da lunedì. Che altro? Troverete anche dei contributi della Rete Set, appena pubblicati nei podcast. Date un'occhiata al sito, perché ci sono diverse interviste molto interessanti. Basta. Le altre novità ve le diremo strada facendo, perché ancora ci sono dei cambiamenti nel palinsesto, quindi è inutile darvi troppe informazioni. Ve li anticipiamo, seguiteci, perché saranno cambiamenti che riguarderanno forse un pochettino la parte, diciamo, sulle news del Wombat, e ci saranno anche sicuramente alcune new entry, per cui lasceremo spazio alle nuove trasmissioni che arriveranno, rivoluzionando un pochettino la scaletta, ma la prima ape della stagione è uscita dalla finestra, ma insomma dandovi comunque la possibilità di ascoltare tutte le trasmissioni a ora ancora, come dire, vive del Wombat, semplicemente cambiando un po' orari e giorni. Superstiti del Wombat, direi. Davvero. E da te focalizzate il palinsesto sulla domenica mattina, perché sarà un nuovo spazio interessante con un contenitore di tante interviste, poi vedrete, insomma. Insomma, il Wombat non è soltanto in giro per il mondo, il Wombat è qui e sulle frequenze libere di Radio Wombat e si diverte un sacco a cambiare le carte in tavola. Sì, sì, perché non avevamo proprio nient'altro da fare, perché ricordiamolo, noi questo non lo facciamo per lavoro, lo facciamo per spirito di autogestione, esatto. Quindi non siamo pagati da nessuno. E per grande sollazzo nostre vostre. Ci autogestiamo, ci autofinanziamo, questo è il motivo per cui una tantum vi invitiamo alle nostre feste, perché i soldini di finanziamento dell'ingresso servono a autofinanziare la radio e tutte le spese che ne consegue. Spese vive abbastanza, come dire. Perché ogni volta che diamo una botta di cuffia al microfono, a lungo andare questo genera un dispendio. Io rimango sorda, più sorda di quello che già sono, ma al tempo stesso contribuisco a demolire, anzi mettiamola in falso positivo, mettiamo, io contribuisco a organizzare una nuova festa, ecco. Perché sono una festaiola. Quindi, detto ciò, abbiamo detto tutto, rotto qualcos'altro. Rotto qualcos'altro, farò la trasmissione legata la prossima volta. Faremo proprio così. E allora ci lasciamo con Elvis. Di Elvis. Elvis ci stava oggi, dopo tutto questo susseguirsi del diavolo, abbiamo pensato di proporvi qualcosa di più carino. Diciamo storicamente definibile come musica. Dai, ok. Allora ci lasciamo così, baci, abbracci e ci vediamo, ci sentiamo la settimana prossima. Un saluto in replica. Da Leni e Nina. Ciao. Ciao. You look like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got one. Disguise, oh yes you are, devil in disguise. Mm-hmm. You fool me with your kisses, you cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me, you're not the way you seem. You look like an angel, walk like an angel. Talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise. Oh, yes, you are. Devil in disguise. Mm-hmm. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see. Yes, you are.